Ottobre piovono libri. Oggi vi porto in Calabria, precisamente a Taverna, un paesino alle pendici della Sila Piccola, in provincia di Catanzaro, dove è stato creato un parco letterario all'aperto. Nelle vie del centro storico di Taverna sono sistemate formelle in terracotta sulle quali sono incise poesie di autori del Novecento. Ce ne parla Paola Nania. Le strade della poesia si insinuano per il centro di Taverna, piccole formelle di terracotta disseminate per i muri, incise sopra le poesie del Novecento. Ed era la mostra, cioè l'aperto, è stato Luigi Bianco, poeta e intellettuale. Mi sembrava un andare incontro a qualsiasi tipo di popolazione, dal contadino all'intellettuale che passa, legge. Vogliamo passeggiare nelle vie della poesia. Questo è un poeta che è morto, purtroppo, è un bravissimo poeta che non è stato ancora valorizzato per quanto vale. Renzo Chiapperini, ce la vuole recitare questa poesia? Io voglio trovare la terra e diventare età, peso, suono, colore. Venire fuori. Questa è un'altra poetessa di quelle contemporanee molto forti. Patrizia Valduga. Dedicata al padre, e c'è proprio questo rimorso nei confronti del padre. Io fallita come figlia, non so niente di te, della tua vita, niente delle tue gioie e degli affanni. E ho 40 anni, padre, 40 anni! Per i vicoli stretti e inerpicati si incontrano ancora i versi di Alda Merini e Rocco Scotellaro, le poesie leggere di Valerio Magrelli, l'omaggio alla Calabria di Vito Maida. Siamo i persi pastori da Spromonte, le fiumare d'inverno, siamo il cielo e le olive di una sera, nostra madre e noi nelle sue braccia. O vieni sonno, vieni e non tardare. Paola Nania, GR24, Storia 24 Ore, Taverna. Tutte le informazioni su questa e altre iniziative di Ottobre Piovono Libri su www.cepel.it oppure radio24.it. Anche per oggi è tutto, un saluto ad Alessandra Tedesco. Ottobre Piovono Libri, in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura.